24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ci siamo anche oggi, eccoci qua, sono le 6:34 minuti in punto con il nostro Filippo Aureggi in regia. Anche oggi chissà l'Alpino dove è finito, boh, chi lo sa, ci manda tweet, ci manda messaggi, ma a lavorare io non lo vedo. Saluto invece a lavorare Miriam Lucchetti, che è lì in redazione. Ricordatevi come sempre, but please relax. Relax, l'invito che estendo a Paola Saluzzi. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Ma sì, relax, ma soprattutto una sana allegria. Anche laddove non ci siano gli argomenti, un buongiorno. Buongiorno, certo, che sia buono. E certo. Saluto anche Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Insomma, la nostra coppia di fatto del mercoledì è ricostituita. Cioè, Paola Saluzzi e Luca Dini. Il dico. Il dico, è vero. Beh, Dini c'è, Paola Saluzzi no, però va bene lo stesso. I dico. Allora, sapete cosa ha detto Mario Monti? Sì che lo sapete cosa ha detto Mario Monti. Sono maledetti. Luca Dini, hai sentito? Sono maledetti questi del governo. Siamo un governo maledetto, è vero. Abbiamo fatto cose da maledetti, ma sono cose che dovevamo fare. Parlava al World Economic Forum, sentite come io lo pronuncio, mica come il nostro mitico presidente della provincia di Napoli. Siamo maledetti, allora noi abbiamo pensato a questo. Abbiamo detto, il cantante più maledetto chi è, Luca Dini? Kurt Cobain. E allora, come Nirvana, lo paragonano a James Dean oggi su Libero. Io attore maledetto, io cantante maledetto. Ma com'è possibile che se ne escano con queste cose? Bloody government, questo siamo. È così, direttore, sono un governo maledetto. Ti ricordi che forse una settimana fa io avevo parlato, mi avevi rimproverato perché avevo parlato di questo governo come di un male necessario. Ti ha ascoltato. Se lo dicono anche loro. Ti ha ascoltato Monti. Come il cantante maledetto Kurt Cobain. Paola Saluzzi, secondo me è un po' Monti, un pochino, non si dovrebbe dire, ma gongola per questo astensionismo alto, perché ha detto siamo maledetti, ma siamo pur sempre più graditi degli attuali partiti. Più graditi degli attuali partiti. Beh, insomma, sì, il sottogongolamento è anche abbastanza comprensibile, insomma, laddove ci sia, nonostante il presidente mantenga la sua naturale aplomb. O per un attimo ho chiuso gli occhi, ho cercato di immaginarlo tutto vestito rock che canta. No, che scena, che immagine, ecco, devastante. Esatto. No, assolutamente no, nulla del genere. Beh, certamente, ieri, voglio dire, è da domenica che si commentano le elezioni in Sicilia e innegabilmente, oltre ai risultati che ci sono stati, sui quali bisogna ragionare, meditare e soprattutto studiare, l'assenza di voto è quella forse la cosa che ha fatto più paura. Ma certo. Innegabilmente. Io più che astensionismo lo chiamo proprio assenza, cioè la volontà di non esserci, non perché l'astensionismo sia un'altra cosa, ma intendo dire, ha fatto rumore l'assenza. No, ma infatti va tutti ora a esultare, ma i partiti non hanno, cioè non, fanno fatica a arrivare al 10%, e allora arriva lui, il maledetto Monti. Messa anche così ci svegliamo tutti un po', ma in realtà, Luca Dini, questo astensionismo è davvero così preoccupante? Era davvero un po' scritto, insomma, che la gente fosse... No, secondo me era scrittissimo, ti dico la verità, a me fa più impressione, cioè trovo abbastanza sorprendente che ci sia un 47% che è andato, vista la situazione. E poi riguardo a questa cosa di maledetto di Monti, c'era una cosa che mi è venuta in mente. Quando tutti criticavano Monti perché... questa non è una scelta democratica, la democrazia funziona attraverso il voto, eccetera, eccetera, e tutti osannavano la Spagna perché invece aveva reagito alla crisi con delle elezioni, eccetera, eccetera. E poi quello che sta succedendo in Spagna dimostra proprio come a volte la politica e i meccanismi democratici purtroppo non necessariamente portino alle soluzioni più veloci e più efficaci, perché la Spagna è paralizzata e messa molto peggio di noi in questo momento. Sì, poi c'è da dire che i partiti come reagiscono oggi, ma non è una barzelletta, sembra una barzelletta. Libero titola che Berlusconi starebbe pensando a Rita Dalla Chiesa per rilanciare questa nuova cosa, questo nuovo partito che oppure non lo so, è chiaro, gioco forza poi Beppe Grillo e i grillini, che non so se si possono chiamare così, sì, tu Luca Dini tu li chiami grillini, non temi nulla? Non si può no, perché tu Paola Saluzzi li chiami grillini. No, ti è arrivata la correzione in redazione? Cioè, sì, mi è arrivata ma io sono sempre la testa dura, lo sai che combattente che sei. Comunque gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno dato sicuramente il là a una revisione della politica, anche da un punto di vista, non perché la politica non lo facesse, ma anche da un punto di vista di coinvolgimento di persone che non sono date all'interno della politica stessa, e non c'è nulla di male in questo, perché se è vero che la politica va fatta, un tempo si faceva preparando sin dall'inizio, sin da giovani, insomma, i deputati o le deputate a diventare tali, è anche vero che oggi forse la società si possa mettere in gioco, non c'è nulla di male in tutto questo. Di buono questo 47 che stupisce il direttore, sì. Dini, ha ragione, ha provocato una reazione, cioè quella di dover cambiare marcia e cambiare metodo. Allora, qualsiasi cambiamento laddove porti ad una, puoi anche buttare giù un muro in casa, però se lo fai per ampliare, per ristrutturare, vanno bene anche i cambiamenti. Sì, ma il cambiamento secondo me dovrebbe essere che allora i partiti si adeguano, capiscono il cambiamento, invece mi sa che non capiscono, come il sospetto che non capiscano tantissimo. Poche settimane, hanno tempo poche settimane. Tra l'altro io vi devo rimproverare, perché qua nessuno si è accorto, ma noi il nostro bar non l'abbiamo ancora aperto oggi, siamo chiusi. Siamo chiusi, cioè, capisci? Eccolo qua, eccola la sala cinesca. Oh, un po' in ritardo, è arrivata anche Nicole Minetti, finalmente, perché... Ecco, adesso è veramente Halloween. Adesso... è ufficialmente Halloween. Posso dire una cosa? Sì, sì. Faccio uso di Radio 24 e di 24 Mattina nel migliore dei modi. Voglio fare i complimenti al direttore Luca Dini, perché il blog WOND74, WOND74, grazie, la storia formidabile di una formidabile donna che racconta la sua chemioterapia è tra le cose più belle che Vanity ci proponga e ci abbia proposto. Ti quindi andatevelo a cercare, perché molto è emozionante e straordinario. Grazie direttore. Grazie a te. Eccoci qua. Allora, lo conosco anch'io e l'ho letto anch'io. Formidabile. Confermo. Che chiocciola WOND74 su Twitter, basta, ho finito. Stamattina volevo parlare di una grande donna e l'ho fatto. Allora, a proposito di donne, anche io ho qua il numero di Vanity Fair. No, visto che c'è un altro termine che è entrato molto, molto nel vocabolario, forse adesso faranno anche una modifica, no? Choosy. Faranno le modifiche, ogni tanto fanno gli aggiornamenti. A proposito di Choosy, sapete che i ladri hanno svaligiato la casa del ministro Fornero? Lo sapevate? No, non la sapevate. Sono stati extremely choosy. Sono andati a casa del ministro Fornero e hanno in vacanza, che era la casa di montagna, e hanno portato via delle cose. Extremely choosy. No, ma a proposito di choosy e di donne, oggi, ma perché Margherita Hack, intervistata, Luca, avete intervistato Margherita Hack, grandissima donna, che dice io sono stata choosy nella vita, che poi cosa vuol dire? Cioè ha scelto, lei si è buttata nel mercato subito? No, sì, lei dice semplicemente a tutti fa piacere trovare un lavoro che piaccia, schizzinosa, francamente lo sono stata anche io. Cioè lei la reputa una cosa positiva, insomma, l'ambizione. Però faccia dire, lei è arrivata, forse era anche un po' di anni fa, insomma, si poteva. Sì, diciamo che erano altri tempi. Comunque lei in questa intervista a Vanity Fair dice io sono stata choosy, fortunatamente mi sono scelta quello che volevo fare. Però ecco, una cosa che io avevo già letto e qui conferma Vanity Fair, Margherita Hack si candida alle politiche. Ora io sì, anche lei, ora va bene tutto, ma insomma, come dire, massimo rispetto per la scienziata Margherita Hack, ma è il rinnovamento? No, e poi è bello che lei dice che si è candidata per Democrazia Atea . E dice che insomma ho accettato perché mi hanno rotto le scatole. Ah, ma se venisse eletta rinuncerei. Se venisse eletta rinuncerebbe. Insomma, è come forse il metodo anche, non so, Berlusconi da Rita dalla Chiesa, basta insistere e chiedere e poi si otterrà qualcosa. Dalla riforma della magistratura al metodo Forum direttamente. Al metodo Forum. Vogliamo sentire Beppe Grillo a proposito di questo, quando dice questa frase sia sugli onorevoli sia su Totò Ucurtu, perché è interessante. Beppe Grillo: chi entrerà in Parlamento si toglierà questo nomignolo ormai deleterio di onorevole. Quale onorevole? Niente onorevole, sarà cittadino del Movimento 5 Stelle. Il leader sarà il Movimento, il leader vero. Ma Paola Saluzzi, ha senso questo? Cioè dire non li chiamiamo più onorevoli? È una provocazione. È una provocazione bella e buona. Ma io credo che ci creda davvero. Proprio... Io credo... Dunque, quando è stata proposta di chiamare gli onorevoli soltanto deputati, però ha retto poco, diciamo, come iniziativa. Sicuramente onorevole è un formidabile appellativo, no? Tu sei una persona onorevole e quindi questo è vuol dire che ti comporti in modo onorevole, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, al di là di questa provocazione, anche perché da un punto di vista, e non lo dico io, l'ho letto, insomma, l'hanno detto grandi giornalisti, da un punto di vista anche di battute sul giornale, sui titoli, il cittadino del Movimento 5 Stelle suona un po', insomma, ci fa mangiare un po' troppe lettere, no? Mi è piaciuto il tono di Grillo in questo suo messaggio. Era un tono più pacato, più... Sì, quando fai i messaggi da casa è un po' più tranquillo. Più onorevole, ecco. Più onorevole, Beppe Grillo onorevole. Buongiorno, non accetto le critiche a quelli che non vanno a curare. Io ho 42 anni e non mi fido più di nessuno, soltanto della mia famiglia. A tutti quelli che si lamentano dei politici, ma perché non dite anche quanto tempo dedicate voi alla cosa pubblica e all'impegno? Siamo sempre il solito popolo piagnone. Candidatevi e fatevi votare. Non c'è nessuno che si alza con una scarpa nel consiglio comunale di qualcuno e la sbatte e dice di aumentare le pensioni. Porca la miseria. Ma ho sentito quel consigliere della giunta milanese che per 6 ore di ingresso in giunta prenderà 10.000 euro al mese. Invece di giustificare dicendo che lavorerà molto per le prossime 12 ore, perché non rinuncia pubblicamente al suo stipendio? Che pazienza Milan che ha. Stamattina ho sentito l'intervista con Franco Spada, che pazienza. A parte che avete notato che ha detto almeno 12 volte, sinceramente, che puzza di pesce in una maniera, cioè farebbe venire gli istinti omicidi anche a Paperoga. Allora, Franco, questa era la nostra segreteria. Franco Spada, caro Luca Dini e cara Paola Saluzzi, è questo consigliere regionale di cui oggi scrive anche Mario Giordano su Libero, era nostro ospite ieri, è entrato in consiglio regionale 6 ore prima dello scioglimento, 6 ore prima, per questo verrà pagato finché verrà rinnovato il consiglio regionale, quindi tra 3 mesi prenderà 50.000 euro, ma ieri ha detto, ma guardi che sono state 6 ore intensissime, eh? Abbiamo approvato la legge elettorale, quindi per 6 ore prenderà 50.000 euro. Vabbè, siamo sempre, e che dire, niente, siamo sempre con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, e Paola Saluzzi. A proposito di donne coraggiose, ne ho vista un'altra, qui bisogna parlare, il tema è molto, l'ho vista anche in TV, una donna molto coraggiosa, Luca, che voi avete intervistato, la fidanzata, si chiama Rosanna Ferrigno, la fidanzata di Lino Romano. Lino Romano chi è? Questo ragazzo che è stato ucciso a Napoli, perché è capitato nel posto sbagliato, al momento sbagliato, sì. Una persona per la quale poi scatta sempre questo riflesso, come scriveva Roberto Saviano, subito si va a dire, beh, ma se è stato ucciso a Napoli in un quartiere difficile, un qualche motivo ci sarà, come mai, cosa avrà fatto? E invece è una persona normalissima, no? Certo, una persona normale, e invece devo dire, questa ragazza è straordinaria, perché dice una cosa normalissima che mi ha colpito molto. Lei dice: i camorristi hanno scelto come vivere e come morire, noi invece no. E questa, cioè la profondissima ingiustizia di un sistema, di una città dove morire per sbaglio per un incidente diventa quasi accettabile o normale. Perché questa è parte dell'Italia reale, poi di cui una parte, per carità, di cui poco si parla. Siamo sempre presi, no, anche noi giustamente, concentrati sulla politica, gli sprechi della politica, quello che succede nel macro paese, no Paola? Invece poi dopo le micro storie poi della gente di vita reale sono queste. Noi dovremmo ripartire da una lezione visiva. Noi siamo un mosaico. Quando si dice la parola mosaico si diceva, beh sì, un mosaico. Invece andandoli a studiare, andandoli a vedere da vicino, se sono singole, minuscole tessere, e se ne manca una, manca tutto, nel senso che si rovina l'opera. Allora, noi siamo il paese fatto delle persone, delle donne come Rosaria, che ha anche detto noi siamo di più, e ha detto una frase che è bella e non va dimenticata, nel senso che è benissimo che questa settimana Vanity si occupi di lei. L'importante è davvero che non si spenga la luce su questi fatti, cioè oltre all'umana pietà totale, al dire poteva capitare a mio figlio, poteva capitare al mio fidanzato, al mio ragazzo, a chi vuoi, al mio amico, ok? Perché perdere un amico vuol dire perdere una montagna davanti alla propria vista, bisogna continuare a parlarne, continuare. Sono queste le persone delle quali, politicamente parlando, intendendo come politica la cosa pubblica, come diceva quel tuo ascoltatore poco fa, e ottimamente avete fatto a mettere una segreteria telefonica, avete fatto molto bene, la cosa pubblica è anche la storia di questa ragazza, ma non il giorno in cui è successo il dramma, il giorno dopo, il giorno del funerale, no, adesso domani, no ma certo continuare ad occuparsene, questo è assolutamente così. Oggi di che ti occupi, Paola? Allora, oggi politica. Dici. No, vai Alessandro. Vai, tra l'altro io volevo approfittare per dire che non siamo in vacanza noi, non so voi, ma noi qui col nostro bar siamo aperti anche domani e anche il 2, ma invece tu di che ti occuperai? Ma quando mi parlano di ponte io rispondo ponte ponente, ponte pita, petta Perugia, certo, il ponte non esiste. Il ponte non esiste. Genio Pontieri, il glorioso Genio Pontieri, il ponte non esiste, si lavora, politica a tutto campo. Tanto da dire, mi godevo poco fa lo Stormy Weather di Billie Holiday, di Mario Platero. Pensavo che parlassi come Monti, no? Cioè Bloody Government, Stormy Weather, Choosy. Non oso, però Alessandro, a me Choosy è direttore. Continuo a sembrare piemonteis, lo dico, lavoriamo. In attesa di parlare delle elezioni anche americane, ovviamente. Anche noi ce ne occuperemo settimana prossima, c'è da dire. Ma Luca, io vedo, perché avete messo in copertina, io sono ignorantissimo in queste cose, Jennifer Aniston, ma con Brad Pitt niente, dopo Brad Pitt Jennifer Aniston. Adesso Miriam Lucchetti di là mi guarda come dire, so anch'io che non sono più insieme, cioè fino a quel punto non arrivo anch'io, so che Brad Pitt sta con Angelina Jolie, questo lo so, però perché Jennifer Aniston? Perché gira con un bel diamantone di fidanzamento, si sposa anche lei, quindi diciamo che ha ufficialmente superato il trauma di essere stato lasciato dall'uomo più bello del mondo, certo, per la donna più bella del mondo. Almeno, ecco, se scaviamo con chi si sposa, questo non lo so, lo ammetto. Questo Jennifer Aniston, ne ho perso le tracce. Ma lo scoprite su Vanity Fair. Intanto vi ringrazio, Luca Dini, il direttore. Ciao, ovviamente, alla prossima settimana, se volete, con Paola Saluzzi anche. Grazie per essere stati con noi. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. E siamo pronti a leggere i giornali. Ora vi ricordo che avremo ospite alle 8:15 l'onorevole Renato Farina, cioè colui, tra l'altro, che ha scritto il famoso articolo che è costato la condanna al carcere al direttore del giornale Alessandro Sallusti. Parleremo di questo iter

partire dalla legge sulla diffamazione sulla stampa, riguardante la stampa, che stanno cercando di riscrivere al Senato. Lo facciamo con una persona che siede alla Camera, ma che credo sia interessato e direttamente anche coinvolto in questa vicenda, è l'onorevole Renato Farina, che saluto, del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto, Farina. Buongiorno. Allora, se ne discute al Senato, c'è stato un passo indietro, per ora è tutto arenato, ma perché protagonista, gli ascoltatori lo sanno, perché tutto nasce da quel famoso articolo che ha portato alla condanna del direttore del giornale Alessandro Sallusti a 14 mesi di carcere. Senta, intanto Sallusti ieri ha scritto: piuttosto che in ginocchio al Senato, meglio in piedi a San Vittore. Ma secondo lei c'è davvero la possibilità che il direttore del giornale entri in carcere? Ma questo è nelle mani della Procura di Milano, evidentemente. Se il Senato non approva nel frattempo una legge che tolga il carcere per gli autori e i direttori dei giornali su cui appaiono articoli condannati per diffamazione, resta un'altra possibilità, cioè che il magistrato di Torino che parte offesa, sì, proceda contro di me. In questo senso, se lui lo facesse, immediatamente diventerebbe palese che siamo dinanzi alla possibilità che ci sia un altro colpevole per un delitto per cui si ritiene colpevole una sola persona. Perché l'articolo lo scrisse lei, però la sentenza ormai è passata in giudicato, sì, quella per Sallusti. Come... Perché dinanzi all'evidenza, allora la querela per la diffamazione si punisce per querela di parte. Nel momento in cui io ho scritto una lettera raccomandata al magistrato con ricevuta di ritorno, e ho ricevuto la ricevuta di ritorno. Ah, lei gli ha scritto? Gli ha scritto? Sì. Io ho scritto e mi sono autodenunciato presso la Procura di Milano il 5 ottobre, per cui è passato un po' di tempo, esponendo il fatto che io non sapevo esistesse questa querela e che avendolo saputo una settimana prima, e naturalmente essendo il giudizio della Cassazione sul diritto, sulla forma e non sul merito, che ormai era stato definitivamente stabilito dalla Corte d'Appello, e tra l'altro non capisco come mai le autorità inquirenti non si siano posti seriamente la questione di chi fosse Dreyfus, visto che a me nessuno l'ha chiesto, ma io l'ho scritto in un libro. Ma questo qui, questo 5 ottobre, c'era già stata la pronuncia della Cassazione quando lei ha scritto, oppure ha scritto dopo? No, certo, ho scritto dopo la pronuncia della Cassazione denunciando l'errore giudiziario a questo punto. Perché non l'ha fatto prima? Perché poi la vicenda prima è molto venuta fuori. La questione. Allora, ripercorriamo gli ultimi giorni della vicenda. Feltri scrive un editoriale, mi sembra il 21 settembre, dove dice Sallusti rischia succede questo per questo articolo, messa denuncia, cioè ho sbagliato, messo controllo, viene considerato anche di un altro articolo e viene considerato anche l'autore di un articolo firma. Ecco, lei già il 21 punto, settembre poteva dire: guardate che sono stato io. A questo punto naturalmente volevo capire quale fosse la linea giuridica del giornale, perché basta che la parte offesa ritiri la querela in qualsiasi momento prima della sentenza. Questo sì. Allora io ho telefonato a Sallusti, che non mi ha risposto, gli ho mandato un messaggio dicendo che io ero disposto a fare qualunque cosa fosse utile, gli ha risposto. Dopodiché io ho sentito Feltri e mi è stato detto che la linea era quella di cercare di convincere di trovare una transazione, un accordo con il magistrato. Sì, ma perché lei al di là della vicenda questa giudiziaria, perché pubblicamente lei non si è alzato a dire quello comunque vada a finire, sappiate che è un'ingiustizia, nel senso che quell'articolo neanche l'ha scritto il direttore. Allora, Sallusti il 16 gennaio del 2007, interrogato dall'Ordine dei giornalisti insieme al comitato di redazione di Libero, giurò che Dreyfus si riferiva a lui. Allora io rischiavo di metterlo nei guai anche dinanzi all'Ordine dei giornalisti. Addirittura, cioè l'ha fatto per proteggerlo. Scusate un attimo, provate a porvi la questione. Allora, esiste un diritto universale, che è il diritto di opinione, e questo vale anche per gli assassini, suppongo. Io in quel momento ero stato sospeso, non radiato dall'ordine. Dopo che scrissi un articolo in forma di lettera, sì, al giornale, al Libero, nel periodo di sospensione, essendo in quel momento sospeso da tutte le funzioni, dallo stipendio e da tutto, fui ancora una volta incriminato dall'ordine dei giornalisti insieme a Sallusti. A questo punto si decise insieme di utilizzare uno pseudonimo, sì, sì, che avrei usato io. L'ordine, non contento, ha indagato anche su chi ci fosse dietro questo pseudonimo. E lui, vabbè, ma ha detto, è riferito alla, diciamo, era a disposizione della direzione. Però questi sono, diciamo, se vuole, allora, procedure. Scusatemi, voi mi credete, sì, pensando che io l'ho fatto totalmente in buona fede per preservare le cose, oppure pensate che sono un vigliacco? Non, ma esiste, no, no, ma non esiste questo... alternativa. Io ho dato la mia spiegazione. Se non mi credete, pensate che, pensate pure che sia una favola. Però l'ha fatto, però l'ha fatto il giorno dopo, cioè in Parlamento ha detto: sono stato io, una volta che era esecutiva la sentenza. Cioè, lei non crede che se l'avesse detto qualche giorno prima, quel magistrato avrebbe ritirato dicendo la querela, dicendo: beh, allora sì, effettivamente stiamo andando in carcere una persona sbagliata. Tra l'altro, se voi leggete sicuramente Twitter, l'ufficio del difensore del magistrato ha scritto in un Twitter che si ritiene che quello era Farina. Ma perché non sono state fatte le indagini, mi scusi? Cioè, io resto colpito da questo. Però la chiedo, perché umanamente, rischia di andare in carcere una allora, persona? Allora, io fino all'ultimo, sì, fino all'ultimo, sono dipeso da quello che mi avesse detto Sallusti. Io non sapevo quale fosse la sua strategia. Cioè, lui a un certo punto, mi sono reso conto, voleva andare diritto per questa strada, perché l'unica strada per cambiare questa legge era quella di farsi condannare. Cioè, quasi questa era quasi la cosa che io ho compreso. Quasi, no? Sta dicendo che quasi Sallusti si vuole fare martire non di questa questo vicenda. Non è che si vuole fare martire. Cioè, come lui ha detto più volte, si vuole consegnare una legge ingiusta per dimostrarne l'assurdità e costringere a cambiarla. Ma c'è il rischio questo del carcere. Questo è quello che lui ha detto e fatto. No, però c'è in ballo il carcere, capisce che non è uno scherzo il carcere. Scusi, il carcere, se avesse voluto accettare la logica che lei dice, avrebbe potuto tranquillamente non solo evitare il carcere, ma evitare qualsiasi forma di condanna anche dell'altro collega di Torino, semplicemente facendo versare al giornale 20.000 euro a un'associazione di beneficenza che aveva indicato il magistrato di Torino. Sì, mi spiego? Sì. Allora, non volendo fare questo, è evidente la sua intenzione di andare fino in fondo. Politica e morale, no? Allora, io non avevo il diritto di interferire dentro questa cosa senza che lui, sì, me lo chiedesse esplicitamente. Però le chiedo questo, perché allora, non si può. No, no, ma sì, ma questo è chiarissimo, le chiedo allora, questo, però perché Sallusti? Sì, no, allora, io nel momento in cui mi faccia fare questa domanda, però ho detto sono disponibile. No, ma questo è chiarissimo, l'ha detto più volte. Mi faccia fare questa domanda: perché Sallusti, e mi scusi, ma le riferisco un termine che ha usato Sallusti in un'intervista a Vanity Fair, l'ha definita uno stronzo, un doppio giochista da sempre che mi ha messo sempre nei guai. A questi microfoni invece l'abbiamo chiamato, ha detto: no, per carità, non ci voglio parlare con Farina, mi ha sempre messo nei guai, meglio starci alla larga. Sì, ha detto che più o meno pescaramanzia non mi pescaramanzia vuol dire. Pescaramanzia non ecco, allora, io dico questo, io con ogni evidenza non intendo, lo avete capito da queste ultime, dai miei minuti di trasmissione, non ho nessuna intenzione di polemizzare o di replicare a Sallusti su queste cose. Ricordo solo che ha definito il Senato i senatori cialtroni, che è pure peggio di stronzi, ecco. Credo che lui stia combattendo una battaglia, e nelle battaglie tante volte si usano proiettili che finiscono anche per essere un fuoco amico. Questo lo dico perché io non so darmi spiegazione di queste cose che lui ha detto, non me le so dare sinceramente. Beh, un po' di guai glieli ha causati, insomma, al di là di tutta la vicenda, qualche guaio gliel'ha causato. Sì, gli ho causato causato dei guai, sì, è vero, è vero. Nello stesso tempo lui ha accettato di caricarsi queste cose ed è un po' strano che alla fine uno presenta il conto, no? Mm. Cioè se uno si accetta di portare un peso o dice che non è in grado di farlo e allora uno decide altrimenti, sì. Oppure se lo fa dopo non si presenta. Però mi scusi, presentare il conto, però stiamo parlando del fatto che chi rischia il carcere è lui. Senta. Lei sa bene che esiste qualcosa di peggio del carcere, che è la reputazione delle persone, no? Cioè nel momento in cioè, cui dice, lei Renato Farina è peggio di è stato... nel momento in cui io sono stato più esposto, no? Come è evidente se lei guarda la pagina internet che mi riguarda, sì. Si aggiunge anche il carico di uno che rischia di finire in carcere e di fatto dà la colpa a me, non è bello, cioè non è una situazione bella. Se permette, dal punto di vista della reputazione, ecco. No. E lei dovrebbe anche stimare il fatto che io non mi metto in veglia. Poi dopo, naturalmente, si può fare di tutto, no? si può dipingermi anche di arancione, no? E dicendo che me lo merito. Ma io in coscienza, lo dico francamente, mi sono comportato in modo retto anche nella fase iniziale. Se mi avessero detto come era giusto, come poteva essere giusto, caro Renato, dopo quello che hai fatto sei licenziato, dopo quello che hai fatto tu non scrivi più, io avrei accettato. Nel momento in cui insieme si decide che tutto quello che mi è successo non mi è successo a causa di cose infami che ho fatto, ma perché ho servito lo Stato, sì. non ero in condizione di poter rivelare questo a nessuno. La vicenda dei servizi segreti, no? Questo. Allora si comporti di conseguenza, no? Questa è una linea molto precisa. Poi dinanzi al fatto che si impedisce a uno, mi stupisco del fatto che io sono assolutamente più detestato dai colleghi giornalisti che da tutti gli altri. Lei sa che se io faccio un esempio molto semplice. Io non la detesto. L'altro giorno escono le motivazioni di una sentenza che mi riguarda perché ho visitato il carcere insieme a una persona. Ha portato un collaboratore che non poteva portare. Ecco. Sì. Io ho visitato centinaia di carceri sempre con lo stesso metodo, che poi è il metodo dei radicali praticato da 37 anni. E per me arriva la condanna, no? Io l'ho fatto per ragioni umanitarie, che sono secondo me legate al mio ufficio, per cui io nomino è andato a vedere chi? Lele Mora, a visitare Lele Mora in carcere. Era portando un suo collaboratore, un collaboratore di Lele Mora, ma facendolo passare per un collaboratore. No, non era un collaboratore di Lele Mora. Un amico. Sono sempre un pochino più. Allora, Mora stava malissimo, ha perso 50 anni, tutte queste storie, ha cercato il suicidio, questo a me risultava. Mi arriva una lettera di questo ragazzo dicendo che lui era in condizione, che se avesse visto Mora magari si tirava su di morale. E quindi lei l'ha fatto passare per un suo collaboratore da parlamentare. Attribuendomi il diritto di nominare collaboratore chi voglio, mi spiego, anche uno che magari ha fatto l'aspirante tronista, perché non credo che esista una legge che vieta a chi ha fatto l'aspirante tronista di fare il collaboratore parlamentare o anche il magistrato, eventualmente se passa gli esami. Io l'ho portato dentro, ma questo è un altro discorso, non voglio parlare di questo. Vabbè, escono le motivazioni. Escono le motivazioni che dicono che io ho gravi precedenti penali, cosa falsissima peraltro, e che la cosa è aggravata dal fatto che io ho una profonda conoscenza del pianeta carcere, per cui mi si imputa anche il fatto che vado sempre nelle carceri. Quindi avrebbe dovuto saperlo. Questa cosa viene diffusa da tutte le agenzie italiane. I miei avvocati replicano dicendo che sarà deposto appello e questa sentenza è assurda per questo e quell'altro motivo. E nessuno lo scrive. Nessuna agenzia l'ha ripresa. Farina, devo chiudere perché ho la pubblicità. Ho 20 secondi. Mi dica, dovesse entrare in carcere Sallusti, cosa che non si augura il carcere per nessuno, quel giorno lei come si sentirebbe? Piacerebbe tantissimo. Di certo ho superato l'idea di sentirmi in colpa per questo. Comunque io sono convinto che lui non andrà in carcere e sono convinto che se il magistrato offeso è una persona corretta, porrà in essere le condizioni per evitarlo nel modo che ho detto. Cioè dovrebbe querelandomi, eventualmente spedendo me in galera. Quindi lei sta invitando, diciamo, se una persona deve querelare sono io quello, lo faccia il magistrato. Lo faccia non il magistrato di Torino, di cui non faccio nome perché sennò dice che è esposto. risposto a telefonate negative. È stato fatto da tutti. Cosa che peraltro capitano anche a me. Ma questo fa parte dell'essere persone pubbliche, non mi lamento di questo. Ecco, per cui può esserci questa strada. Questa io credo che il Senato difficilmente riuscirà ad approvare in tempo utile la legge nei 30 giorni, però la Procura di Milano credo che non procederà, io lo credo, non procederà a questo arresto. Questo staremo a vedere, staremo ovviamente a vedere. Una pubblicità assolutamente negativa anche per... però è una sentenza esecutiva, quindi sarebbe anche strano spiegare come non eseguire una sentenza. In ogni caso la ringrazio, mi devo fermare, buona giornata Renato Farina, grazie del Popolo della Libertà, onorevole. Poi parliamo di costi delle regioni. Ieri il governo si è riunito, hanno stabilito che ci sono dei costi standard, dei costi massimi. Ci sono delle regioni virtuose, avete sentito le virgolette, in cui si guadagna meno e per cui tutte le altre regioni ora dovranno fare sacrifici, avete sentito le virgolette, adeguandosi a quei parametri. Un presidente di regione ora non potrà guadagnare più di 7.400 euro, un consigliere regionale non potrà guadagnare più di 6.200 euro, tutto netti, tutto al mese. Si tira la cinghia in regione. Allora, ieri il governo e regioni si sono messi a un tavolo, sono state stabilite delle nuove regole sui costi della politica. In pratica si è deciso così: quali sono le regioni più virtuose? Poi, lo ripeto, si può discutere se questo aggettivo si possa utilizzare, visti gli stipendi di cui parliamo. Per quel che riguarda gli stipendi ai governatori, si è deciso che è l'Umbria. E allora tutti dovranno regolarsi con l'Umbria, dove il governatore e il presidente guadagna 7.400 euro al mese netti, non un euro di più. Dove invece è la regione più virtuosa per quel che riguarda i consiglieri regionali? L'Emilia-Romagna, dove il consigliere regionale guadagna 6.000 euro netti al mese. Ecco, tutte le regioni dovranno adeguarsi a questo. Il tetto agli stipendi, ne vogliamo parlare con il governatore presidente del Molise, non so, lo posso chiamare ancora così, Michele Iorio, buongiorno, del Popolo della Libertà. Sì, fino a nuove elezioni. Fino a nuove elezioni, perché in realtà è stato dichiarato decaduto il governo del Molise per delle irregolarità nelle elezioni, però lei è ancora ovviamente il presidente del Molise. Saluto anche il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, Matteo Richetti, del Partito Democratico, buongiorno. Ben ritrovato. Buongiorno, anche a lei. Milan, ben ritrovato, buongiorno ai radiospettatori. Allora, intanto, Iorio, lei quanto guadagna attualmente? Dovrà fare una dieta stretta per arrivare a scendere a 7.400 euro? Beh sì, credo di circa 2.000 euro. Sì, sì. Quindi da 9.400 a 7.400, va bene così, cioè, ci mancherebbe, no? Sì, no, va bene, perché io credo che su questa... questione dell'indennità bisognava dare una risposta rapida. Noi come regione ci siamo mossi questa volta, devo dire, con molta determinazione, abbiamo chiesto al governo l'intervento, abbiamo rinunciato a fare battaglie di principi sulla potestà regionale e credo che sia stato questo un buon segnale. Spero che insomma serva a spegnere un po' le polemiche su questa questione. Beh, intanto non tutte le regioni, le regioni a statuto speciale pare che abbiano storto il naso. La Valle d'Aosta ha già annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale e poi, scusi Presidente, non è un gran sacrificio scendere a 7.400 euro? No, guardi, non è un gran sacrificio, ma lei se pensa agli emolumenti dei dirigenti statali e regionali, se pensa, io sono un chirurgo che si è dedicato alla politica, che è incompatibile con la propria professione. Non credo di navigare nell'oro rispetto alla mia retribuzione precedente, quindi insomma non so se cambiamo il sistema, io dico togliamo le indennità, riportiamo a un concetto di che ciascuno possa percepire quello che guadagnava prima. Lei non so quanto percepisce, ma no, se dovesse molto meno purtroppo. Vabbè, mi dispiace per lei, ma voglio dire, se lei si dovesse dedicare a un'attività politica che è incompatibile per legge con la sua attività professionale, lo potrebbe fare rinunciando però Presidente, è il solito mantra del guadagnavo di più facendo il chirurgo o l'avvocato, ma nessuno l'ha obbligata a fare politica, poteva fare una carriera da illuminare. Ma fare politica però è un mio diritto e nessuno mi può obbligare a non farla. Certo, questo sì, però senza lamentarsi a dire avrei guadagnato di più. Ma a fare io non mi lamento, dico però che credo che abbia il diritto di conservare la mia retribuzione, quantomeno la retribuzione. Matteo Richetti, questa vice, adesso poi parliamo ovviamente anche del perché il Molise si va a votare o no. La regione Emilia-Romagna è considerata la più virtuosa per i consiglieri, ma possiamo usarlo questo aggettivo, presidente Richetti? Virtuoso oppure un po' sempre uno sfregio per i cittadini? Parlo con un grande giornalista che ha come hashtag su Twitter rassegnati, se non ricordo male, Milan, quindi so se lo possiamo usare virtuosi. No, adesso a parte le battute, intanto... No, ma lì lo svelo, no grazie, mi dà modo per... Lì è anche un gioco di parole, perché è la rassegna stampa, e quindi rassegnati è un gioco che su questo. Non voglio dare un messaggio di devastazione. Però è chiaro che il tema spesso lo si viene associato alla incapacità, diciamo, della politica di trovare provvedimenti concreti. Diciamo che per la prima volta si è raggiunto un risultato, che questa giungla di retribuzioni per cui... Per due anni abbiamo cercato dei provvedimenti di autoriforma che venissero sostanzialmente indotti dall'azione delle regioni, finalmente con un provvedimento discutibile se vogliamo, nel senso che lede un po' l'autonomia di autodeterminarsi, ma io dico necessario, abbiamo ricondotto tutti a dei criteri che ricordiamolo, insomma, prevedono che 6.000 euro al mese per il consigliere regionale, che non sono affatto pochi, che sono tanti, poi da lì ci sono alcune trattenute volontarie, ma lasciamo stare, insomma, da quell'importo non si può andare assolutamente sopra, che è di fatto l'indennità che oggi percepisce. Che è 6.000 netti è questo. Da lì si devono appunto detrarre alcuni versamenti per chi ancora è in regime, ad esempio, di vitalizio, ma... di fatto sono già comprensivi, cioè a quel punto lì si li toglie il consigliere che andrà un netto ancora più basso. Sì. Detto questo, però, io ricordo, se posso ricordarlo, che voi siete stati i primi alleati nella famosa campagna degli 8 euro, cioè quella di armonizzare tutte le regioni ad un costo standard che partisse dall'indennità dei consiglieri regionali fino anche però ai costi complessivi della regione. Ecco, lei che ha fatto i calcoli, il Molise come è messo, visto che c'è il presidente Iorio che l'ascolta, lo sa? No, il presidente Iorio lo sa meglio di me, visto che la sua regione ha necessità di un piccolo adeguamento che verrà fatto tassativamente entro il 30 novembre, appena poi... È un tema molto serio, cioè l'andare ad incidere sui trasferimenti che il governo mette a disposizione per dare servizi ai cittadini, per cui possiamo dire che questa volta non si scherza, si deve fare sul serio. E unito a questo, se posso, Milan, c'è un terzo punto fondamentale, una riduzione drastica, per alcuni casi fino anche del 93-94% dei soldi trasferiti ai gruppi, perché l'intesa che abbiamo raggiunto ieri con il governo fissa le indennità massime agli importi che lei ricordava, che sono importi appunto consistenti, ma che insomma, io penso che dentro di un esercizio responsabile di quel mandato possono essere riconosciuti. Ma c'è un terzo punto, ci sono regioni che oggi davano 5, 6, 10, alcune abbiamo visto 20 milioni di euro all'anno ai gruppi per funzionare, che non potranno andare oltre. No, ora saranno 5.000 euro l'anno per ogni consigliere, come limite massimo, per evitare i casi Fiorito, ecco, giusto per farci chiaro il tema è questo. Se posso fare l'esempio della mia regione, che dava a tutti i 9 gruppi presenti in consiglio 2,3 milioni di euro, il prossimo anno darà 250.000 euro. Ecco, stiamo parlando del 90% in meno. No, ma certo, i tagli ci sono, però Presidente Iorio, voi sapete che vi dovete adeguare, altrimenti appunto voi, come tutte le regioni, non ci sono più trasferimenti dallo Stato per i servizi, a parte quelli dei trasporti che devono essere ovviamente garantiti, se no lo Stato vi dice non vi diamo più, non vi trasferiamo più i soldi. Lei questo come lo giudica? Un ricatto o una giusta... È una ritorsione. No, non è un ricatto, perché lo abbiamo richiesto noi, l'abbiamo concordato. Voglio dire, la novità di questa decisione, in qualche modo, è l'esempio di come, decidendo insieme, si possono risolvere i problemi senza scaricare all'uno e all'altro la responsabilità. E abbiamo deciso noi che di accettare questo stimolo, chiamiamolo così, che non è un ricatto, è una condizione, che va rispettata. Io non ho dubbi che entro pochissimi giorni adegueremo nel Molise questa regola, dicendo anche, mi consenta di dirlo ancora una volta, che la mia regione intanto ha abolito i vitalizi già da questa legislatura, adesso che è pure terminata, ma comunque è la prima regione ad averlo fatto da subito. Che vuol dire abolite i vitalizi? Cioè per il futuro chi... Non ci sono più, non già, da, già sì. Da noi è già legge, non ci sono più, non dalla prossima legislatura, non ci sono più da questa. Senta, ma però la legislatura è finita, perché? La legislatura è finita perché il Consiglio di Stato ha dato... Ha accolto un ricorso, cioè alcune delle firme raccolte delle firme, tre firme per una lista non erano proprio Firme, no, mi risulta, mi risulta un po' di più, tre firme. Comunque per una delle 14 liste. E lo so, però sono quelle liste che le hanno portato tanti voti, i voti decisivi per... Ma non è così, non è così. La sentenza, vabbè, comunque la sentenza è questo è. Tanto lei ha detto che si ricandida. Ma sicuramente, io l'ho vinta l'elezione perché la stessa sentenza dice, preso atto che dalla verifica delle schede, che sono le schede, i voti, insomma, risulta eletto il presidente della regione Michele Iorio, cioè che ho preso più voti del mio avversario, sì. E questo è certificato dalla sentenza. E quindi lei dice io. Però vabbè, mi sembra giusto, mi sembra logico. Che volta è? La terza, la quarta? Quante volte è? Ma, considerato che questa non è da considerare una legislatura, è la terza. Sarebbe, questa era la terza, quindi sarebbe facciamo un remake della terza. Prima di tornare da un attimo da Richetti, Iorio, vorrei approfondire questa cosa, effettivamente ci ho ripensato, ma la frase che lei dice è: con la politica vi si deve concedere di mantenere lo stipendio che avevo come lavoro, io, lei da chirurgo, ma perché è così? Cioè per molti la politica e per molti cittadini, guardi, la politica dovrebbe essere passione, cioè uno la fa perché crede nel servire la cosa pubblica e non guarda mica lo stipendio. Questo fatto, sto dicendo una cosa logica, io non credo di poter vivere senza nulla. Questo sì, questo allora, senza con dubbio. Che cosa dovrei vivere? Con quello che guadagnavo prima, dedicandomi alla politica, senza poter fare la mia attività, perché questa è la questione. No, ma è l'idea di parametrare quello che uno guadagna prima, allora uno che non è un disoccupato, entra in politica, non gli si dà niente. Perché no, tanto... è appunto, aboliamo le indennità, diamo un minimo, ma molto minimo, contributo per chi è disoccupato, e poi parametriamo, usiamo dei parametri che consentono a tutti di fare politica. Cioè, ma lei sta dicendo che se uno fa il chirurgo dovrebbe guadagnare di più della politica rispetto a che uno che fa l'operaio entra in politica, cioè parametrare in base al lavoro che facevano? Perché lei parte dal fatto che la politica deve dare un guadagno. Io dico che la politica non è un esercizio di guadagno, la politica deve essere fatta per passione, non per guadagno. Certo, però ma deve essere fatta da tutti. Certo, però io deve permettere di vivere pagando... mantenendo lo stesso tenore di vita che uno aveva prima di entrare in politica. Questo sta proponendo. Sì, ma guardi che questa è già legge per il momento, perché già esistono dei consiglieri regionali, dipendenti pubblici, che rinunciano all'indennità politica per prendere lo stipendio di provenienza e paga l'ente. Questa non so, è una vecchia norma. No, vale Matteo Richetti, vale no, mi faccia Matteo Richetti, che ne pensa di questa posizione del presidente Iorio sulla questione di vivere? Certo, bisogna avere uno stipendio anche dalla politica, questo è giusto. Che ne pensa? Io penso che non informazione, c'è una legge dello Stato che quando uno viene eletto, ad esempio, in consiglio regionale, consente di optare tra il trattamento economico riservato ai consiglieri regionali e di mantenere quello da cui proviene. Bene, io non ne conosco uno in tutta la mia vita che abbia optato per quello rispetto dal quale proviene, perché io sento persone che a fare politica ci hanno tutti rimesso sistematicamente, ma non c'è nessuno che abbia rinunciato a ciò che la politica restituisce in termini di emolumenti, indennità e quanto questo riconosce. Per cui forse bisogna dire con onestà che certo chi fa politica non può, finito il servizio, andare sotto un ponte, ma non siamo in questa situazione, mi pare, anzi siamo in una situazione nella quale dover far rientrare ciò che in questi anni è stato secondo me un eccesso di riconoscimento economico, perché negli anni 98, 99, 2000 fino a questi in cui nasce finalmente una sensibilità, insomma sono 2 anni e mezzo che noi stiamo provando a porre il tema dei costi e spesso siamo trattati, ecco i Pierini, gli inseguitori dei Grillini, l'anticasta, e alla fine il problema c'era e c'era come. Stia attento a chiamarle anche lei Grillini, che poi le mandano i glossari. No, d'accordo, adesso io sono usato i dizionari che usavo al liceo. Ha paura, ha paura dei Grillini che le mandano i glossari su come li deve chiamare, no, per carità. Senta, ma se Richetti, se la Valle d'Aosta dovesse far ricorso così come la regione statuto speciale, i cittadini cosa percepirebbero e cosa capirebbero di questa cosa? Beh, io mi auguro che, insomma, ieri l'incontro con le regioni, in effetti non solo la Valle d'Aosta ma tutte le speciali, hanno posto un problema sul decreto nei suoi complessi, decreto che nel parlamentare, dagli emendamenti sui quali si sta ragionando, sta conoscendo alcune migliorie. Ad esempio, lei ricorda, nel primo articolo c'era tutta la parte dei controlli della Corte dei Conti, no? Solo che sono controlli preventivi e su tutti gli atti della regione. Allora io dico, bene, io sono perché i conti dei gruppi consigliari, a maggior ragione dopo quello che è successo, parla un presidente di una regione che ha dei sindaci esterni, professionisti, che controllano i bilanci, quindi non lo fanno tre consiglieri, sì, che si trovano tra di loro. Ma ben venga la Corte dei Conti, perché è giusto che i soldi pubblici, tutti fino all'ultimo, vengano in qualche modo controllati. Invece mi aiuti a capire questa cosa tecnica, perché è sulla Regione Lombardia, ma la Presidente del Consiglio regionale, e poi abbiamo anche il Presidente di Regione, ci potete aiutare a capirlo. Questi vitalizi, cioè è stato fatto un decreto per porre un argine ai vitalizi, ormai li prende solo chi fa 10 anni di legislatura, era per porre un freno al caso Fiorito, ma alla Regione Lombardia non si è ancora capito se ci voglia, se serva una legge regionale che recepisca il decreto del governo per bloccare i vitalizi. Richetti, è così, le risulta? Cioè ogni regione deve fare una leggina? No, il decreto è legge, ed è legge in tutto il territorio nazionale. La regione lo recepisce, ma lo recepisce dentro ciò che già il decreto oggi fa entrare. Ma se non lo recepisce? Cioè è possibile che una regione non lo recepisca? No, perché sai, in Lombardia hanno maturato il vitalizio poco prima di dimettersi tutti quelli che sono alla prima legislatura, però non si capisce se lo prenderanno o no. In Lombardia, come in tutte le regioni a statuto ordinario, se funziona come da noi, dopo 2 anni e mezzo, e quindi il termine temporale, sì, che lei indica, hanno maturato il diritto. Esatto, cioè loro oggi, esatto, possono versare ciò, esatto, che manca per maturare i 5 anni. Cioè Nicole Minetti, parliamoci a Nicole Minetti e tutti quelli che sono alla prima legislatura, lo prendono sto vitalizio o no? No. Oggi, per come è scritto il decreto, nessuno che abbia fatto 5 anni prende i soldi del vitalizio. A meno che quel decreto non venga emendato, a meno che testo non cambi, certo, e quindi ci sia qualche forma di regime transitorio. Le deroghe in Italia, vediamo nell'iter parlamentare, perché le sorprese spuntano sempre. Presidente Iorio, c'è anche chi dice, ma scusate, perché un presidente del Molise dovrebbe prendere quanto il presidente di una regione come la Regione Lombardia? C'è addirittura chi dice che il Molise è talmente piccolo che andrebbe abolito o annesso ad altre regioni. È giusto che si prenda lo stesso? Ma io credo che sia giusto, perché l'indennità dipende dalla funzione che si esercita. Lo stesso governo aveva fatto qualche esempio: non è che un magistrato di un piccolo tribunale guadagni meno di un magistrato di un grande tribunale. E così anche per la funzione che le regioni hanno, che è una funzione legislativa, non è amministrativa, e non dipende dal numero dei cittadini, perché i compiti di una piccola regione e le responsabilità comunque da esplicare sono gli stessi delle altre regioni, con tutte le incombenze e quant'altro. Questo sì. Ritengo che sia un fatto giusto. Le faccio un'ultima domanda su un suo avversario politico, che però è della stessa regione dove lei, Antonio Di Pietro, ha visto? Sì, ho sentito, ho visto. Ha visto le inchieste? Sì, sono rimasto veramente esterrefatto. Esterrefatto. Beh, ci sono anche critiche sul suo modo di governare, cioè suo sprechi, eccetera. Mi trovi un presidente che non abbia chi lo critica sul modo di governare. Ah, sta all'opposizione, Di Pietro, ha perso le elezioni regionali, ha perso quella a Montenero di Bisaccia. Ma c'ha davvero tutte queste proprietà immobiliari che diceva Report? Ah, io non lo so. Beh, lei lo saprà. Beh, no, non lo so, perché mica ce l'ha qui in Molise, insomma. Quindi, beh, qualcuna sì, ma immagino di sì. Vabbè, ma insomma, io non... credo che lo ha detto lui che ce l'ha, poi, tra l'altro. Sì, non è un delitto, dipende uno come l'ha preso. Non è nemmeno un delitto, certo. Infatti. Certo. Va bene, io mi fermo qui, vi ringrazio Michele Iorio, il presidente della Regione Molise, che però dovrà tornare al voto, ma ha detto si ricandida, perché il Consiglio di Stato ha dichiarato decaduto per irregolarità nella raccolta di firme di alcune liste. Il Consiglio e la Regione, e ringrazio Matteo Richetti, Presidente del Consiglio Regione Emilia Romagna, Iorio del PDL, Richetti del PD. Ci fermiamo con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Miriam Lucchetti in redazione, Filippo Aureggi in regia. Noi ci siamo anche domani, domani è festa, ma noi siamo qua puntuali alle 6.30 e i venerdì ovviamente, insomma, ovvio, cioè non ci fermiamo, non facciamo ponti, i ponti non esistono, a domani alle 6.30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Se me l'hanno dato vuol dire che una ragione c'è. Non è scorte e tutele, è una cosa molto diversa. Vorrei che si avesse nella memoria che io sono stato Presidente del Consiglio. Parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.